E anche se per la verità ne abbiamo parlato altre volte, vale la pena di ricordare che non è la scienza che studia le tribolazioni, bensì la scienza che studia l'attrito. Attrito e usura sono, come sapete, fenomeni comuni che impattano in tantissime applicazioni laddove ci sono dei componenti mobili, delle parti meccaniche, per esempio, a contatto, e gli attriti comportano delle immense, enormi perdite di energia. Pensate che secondo le stime, se riuscissimo a ridurre del 10% gli attriti che sono presenti negli autoveicoli, per esempio all'interno del motore, si potrebbero risparmiare qualcosa come 100 miliardi di litri di benzina e più o meno 1 miliardo di tonnellate di emissioni di CO2. Ebbene, tra i ricercatori italiani che si occupano di questo tema c'è la professoressa Maria Clelia Righi del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dell'Unimore, quindi l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è da poco aggiudicata un finanziamento da 1,4 milioni di euro del Consiglio Europeo della Ricerca, quindi i famosi IRC, tra i finanziamenti più prestigiosi messi a disposizione dall'Europa, e questo con il progetto Advanced Solid Interface and Lubricants by First Principle Material Design, detto più semplicemente progetto SLIDE. Allora, buonasera professoressa Righi. Buonasera. Allora, senta, lei ha affermato recentemente che in qualche modo, diciamo, la tribologia, quindi la scienza che studia gli attriti, è arretrata, possiamo dire forse così, rispetto alle altre scienze dei materiali. È arretrata perché è una scienza molto difficile. Cosa la rende così difficile? La rende così difficile il fatto che le prestazioni tribologiche, quindi di attrito dei materiali, dipendono da processi chimico-fisici che avvengono all'interfaccia sepolta durante lo scorrimento. Queste interfacce sepolte sono molto difficili da monitorare in tempo reale mediante gli esperimenti, e quindi capire che cosa accade durante, appunto, un processo tribologico è particolarmente difficile. Ecco, però sappiamo che alcune cose accadono, e ne accadono parecchie, no? Lì dove questi due materiali si toccano. Ci faccia qualche esempio. Sì, i materiali si toccano in regioni di dimensioni nanometriche, sono solo delle... sono apparentemente lisci i materiali, se uno guarda con un microscopio abbastanza potente vede che sono tutti rugosi, e quindi sono queste rugosità che vanno a contatto, no? Vanno a contatto, lì ci sono stress meccanici, si formano stress meccanici molto alti, e se avvengono reazioni chimiche proprio che determinano o l'usura oppure interazione con molecole che sono nell'ambiente circostante, l'umidità che c'è nell'aria. È veramente una roba complicata, e in più non si riesce ad andare a misurare, lei ci ha spiegato, perché come si fa? Le due robe strofiche. Ovviamente con analisi spettroscopiche si può vedere che cosa è successo post mortem, esatto, quindi prodotti delle reazioni chimiche, ma i percorsi di reazione... Cosa succede durante... Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ed è appunto quello che ci consente di fare l'utilizzo delle simulazioni, perché ci consentono proprio di aprire una finestra sull'interfaccia sepolta. Ecco, qui ci avviciniamo alla prima parte, diciamo, a uno degli obiettivi del vostro lavoro, che è precisamente questo, quindi quello di aumentare la nostra conoscenza su quello che accade. Diceva attraverso l'uso di simulazioni, se ho ben capito. Sì, esatto. L'idea è di utilizzare simulazioni cosiddette ab initio, che quindi si basano anche sulla meccanica quantistica, perché includono anche gli elettroni nella descrizione degli atomi all'interfaccia, grazie a queste simulazioni noi siamo in grado di descrivere in modo molto accurato i processi chimici che avvengono all'interfaccia sepolta, e quindi monitorare le reazioni chimiche in tempo reale, e quindi capire come ad esempio poter modificare additivi lubrificanti o altri componenti che vogliamo includere per ridurre l'attrito, perché riusciamo a capire che tipo di reazioni fanno, quali sono i processi chiave che regolano appunto la formazione di anche composti che prevengono l'adesione a queste in queste microasperità. Ecco, quindi oltre a studiare, a cercare, diciamo, di modellizzare meglio quello che succede durante l'attrito, cercherete di sviluppare o almeno di iniziare il percorso di sviluppo di nuovi lubrificanti, è corretto? Sì, perché diciamo lo sviluppo di lubrificanti si è per lungo tempo basato su un approccio prove ed errori. Certo. E invece l'idea è di utilizzare queste simulazioni per individuare dei lubrificanti anche migliorativi rispetto a quelli che ci sono adesso, che sono a base di zolfo, fosforo, che hanno un effetto negativo perché riducono, degradano la marmite catalitica, quindi il funzionamento della marmite catalitica. Certo, quindi insomma si risolve un problema, ma se ne crea in qualche modo un altro. Quindi c'è bisogno non solo di migliori lubrificanti, ma anche di lubrificanti con caratteristiche chimiche diverse, e voi cercherete di disegnarli, di fare il design molecolare, potremmo dire così, grazie al vostro lavoro. Senta, c'è un aspetto molto rilevante poi di fisica fondamentale che voi andrete a studiare in questo vostro, nel corso di questo vostro progetto. Sì, perché le reazioni chimiche che vengono attivate all'interfaccia tribologica sono attivate da sollecitazioni meccaniche, da stress meccanici, e anche il confinamento delle molecole gioca un ruolo importante. E la conoscenza della cinetica di reazioni in queste condizioni è ancora piuttosto limitata. Invece è un modo alternativo di attivare reazioni chimiche, utilizzare le forze rispetto alla luce o alla temperatura, come si fa nella maggior parte dei casi. E può avere anche applicazione in altri campi, oltre a quello della tribologia, perché appunto... Quindi quello della catalisi, per esempio, no? Lei dice, al posto di avere una catalisi chimica, avremo una catalisi meccanica in qualche modo. Esatto. Ecco, quindi insomma, la scienza degli attriti che non si occupa solo di qualcosa che si consuma, ma anche di qualcosa che si crea di nuovo. Grazie, grazie professoressa Righi. Prego. Grazie a voi. Cari ascoltatori, è tutto anche per questa sera. L'appuntamento con Smart City torna come sempre domani. Buona serata a tutti voi.